considerando nella fattispecie questo incontro che viene fatto sul battello da Vito Monterou, incontro capitale tra Frédéric e Madame Moreau, Frédéric Moreau e Madame Arnaud, Marie Arnaud, incontro che avviene in delle fasi successive. Prima c'è incontro con il marito, poi appare la figura della bambina e poi all'ultimo, come un'apparizione, come una specie di quadro, c'è Madame Arnaud. Quindi le finezze che Flaubert mostra e su cui ci si potrebbe soffermare sono veramente tante. Perché un'apparizione? Ecco, perché, come vi dicevo, è un'idea bellissima di Proust che vale la pena recuperare, e quando uno incontra una persona e poi si innamora di questa persona, il ricordo di quel primo incontro ti rimane poi sempre nel corso del tempo, e quindi tu non vedi più la persona come è realmente, ma come l'avevi vista la prima volta. Ma poi anche c'è, secondo me, un'altra ragione per questo mettere in evidenza che Sophie Comme un'apparizione, ecco. E perché in realtà le cose belle e fondamentali della nostra esistenza sono come esistenti per essere vedute, se mi intendete, cioè la loro esistenza è proprio in questa capacità di farsi vedere. Se tu avverti ciò che viene incontro a te da quello invece che non viene incontro a te, e riesci magari a elaborare come importante solo nel corso del tempo. Quello che si nota in Flaubert è un eccesso di spirito didascalico che è certamente presente nella Bovary, assai meno nell'educazione sentimentale, ma rispecchia un ordine mentale molto profondo. Prima c'è il battello che parte, la gente intorno, poi avete visto che c'è una considerazione sull'ambiente della gente, sulla condizione sociale della gente che sta viaggiando, e poi, come se una macchina da presa dovesse raccontare tutto questo, poi si arriva alla scena capitale. Questo modo di raccontare, come se fosse una macchina da presa, fa anche pensare, abbastanza misteriosamente, che l'educazione sentimentale potrebbe, credo che non sia mai avvenuto, che mi costi, e credo che sia impossibile, ma potrebbe essere adatto a una misura cinematografica fatta naturalmente con splendida bravura e tenendo conto che i dialoghi sono molto limitati. Quindi sarebbe un film di cinema, se così posso dire, un film totalmente di immagine. Ma io vedo molto bene che se il regista fosse davvero geniale e bravo, potrebbe raccontare proprio le scene che avvengono attraverso colpi di macchina da presa. Avevamo considerato l'apparizione. E poi c'è un episodio, subito dopo quello che consente, dopo che quest'uomo, che non è un uomo, è un giovane, come vi dicevo, e quindi tutte le sue reazioni psicologiche sono reazioni di un giovane, quando la sciarpa di lei, tutto è sempre nel segno dell'educazione, di una grandissima decenza, il che non comporta l'esclusione nel libro anche di cose crude, carnali, ma e tanto più, se vogliamo, sollecitanti, affascinanti, in quanto che sono, appaiono all'improvviso, come vedremo, no? A un certo momento noi vedremo delle donne che sono sedute tutti intorno, e signore ben messe nel loro corpo, per così dire, e fanno venire in mente, non solo al lettore, ma anche all'autore stesso, che sembra suggerire un pensiero di questo genere, come se le donne fossero sedute al gabinetto. E quindi c'è un contrasto tra queste signore da salotto che sono messe, atteggiate secondo i canoni della più raffinata decenza e eleganza, e poi c'è questo erompere della carnalità. Sarebbe infatti ingiusto pensare che in una visione così alta dell'amore e della vita non vi siano queste irruzioni di carnalità. Badate, non soltanto nel senso che vi sono le donne da letto e le donne non da letto. Quella non da letto è Marie Arnaud, quella da letto è Rosannette, e tanto più la terza donna, che è una donna che è legata a lui per motivi di interesse sostanzialmente, di fatti economici, che è Madame d'Ambrosio. No, ma è come se la carnalità fosse dappertutto. Aggiungerò una cosa importante, che la stessa donna che potremmo chiamare erroneamente donna angelo, cioè lei, Madame Arnaud, in realtà è vissuta in una sua carnalità. E attenzione, è una sorta di Dio, ma proprio perché, attenzione laggiù, ma proprio perché è carnale. Ecco, la differenza sostanziale tra una donna angelo della tradizione stilnovista, e pensate ovviamente a Beatrice, ma pensate anche a Laura di Petrarca, pensate a tutte le donne di, che ne so, Cino di Puccini, Cino da Pistoia, e tutti gli stilnovisti, Guido Guinizelli. E la differenza sostanziale è proprio questa, che la carne lì non c'era. Qui la carne c'è, era ed è Dio. Ed è una carne stupida. Madame Arnaud è stupida. Questo stupido lo metteremo naturalmente fra virgolette, ma una sua stupidità carnale. E in questo senso io l'ho chiamata il Dio Oca, Dio trattino Oca, e in questo senso è Dio. È Dio perché riesce a realizzare questa femminilità animalesca totalmente. Quindi non è una donna angelo in nessun modo, ma è una donna Dio che è tale, ripeto, in quanto, ecco, mi diceva, oca. Una caratteristica di Flaubert è che si tratta per gran parte, direi tutto sostanzialmente, di un texte de plaisir. Il suo testo è un texte de plaisir. La distinzione è di Roland Barthes, ve ne parlavo l'ultima volta, ed è molto interessante e molto utile. I text de jouissance o di godimento sono testi difficili che richiedono la partecipazione del lettore. Il testo di Flaubert è un testo che ti viene incontro al lettore. In realtà questa distinzione nel caso di Flaubert è solo apparente, perché è vero che ti viene incontro, nel senso che i personaggi, come vi dicevo, si comportano tutti secondo il cliché che lui ci ha dato, no? Per cui li ha impostati in un ideale computer questi personaggi e fanno sempre tutto come devono fare. Arnaud è bieco alla seconda pagina, lo è all'ultima pagina del romanzo. È chiaro? No? Come personaggi, come caratteri della commedia dell'arte. Quindi è vero che c'è questa prevedibilità che dà al lettore un senso di piacere, perché dice, oddio, ecco, è esattamente così, avrebbe dovuto fare. Ecco, quello che vi dicevo sul fatto che quando noi conosciamo, è un'idea tra l'altro di un filosofo molto interessante, che era Dewey, John Dewey, quando noi conosciamo, noi siamo lieti di poter dire, sì, le cose sono così, questo autore ha ragione. Ogni volta è un sobbalzo di gioia quando ci rendiamo conto che conosciamo già quello che stiamo conoscendo. È come se conoscessimo quello che stiamo conoscendo. Conosciamo un pochino di più, ma abbiamo bisogno di una base per rallegrarci, una base già di conoscenza. È chiaro il discorso? Bene. E vorrei dire che tutto questo anche nella schematica dei sentimenti è molto vero. Noi non possiamo amare una cosa che sia completamente aliena da noi. Noi possiamo amare qualcuno che certamente ci procuri una sorpresa, su questo non c'è dubbio, ma che per certi aspetti si colleghi a cose che già conosciamo. È questa duplicità di conoscere e non scena a cui stiamo adesso per assistere è una scena prevedibile, come tutte le scene dell'educazione, perché siamo sul battello, il ceto sociale è normalmente basso, siamo, ricordate, con una divisione di classi, come le megaere, c'è la business class, eccetera, eccetera, qui c'è la classe seconda, dove evidentemente va il giovane Frederick. Se qualcuno ricorderà appunto quel film che abbiamo citato, il Titanic, no? Che avete visto in molti, anche lì c'era la prima classe, c'era la seconda classe, non so, anche la terza classe. Mi pare che sì, scusate, la terza classe, proprio quello dove stava lui, il protagonista. E qui improvvisamente lui si trova ad entrare in un'altra classe, ad aprire fisicamente un cancelletto, il cancelletto che separa le seconde dalle prime, e si trova in un altro mondo. Altra piccola meravigliosa finezza, cosa ho detto adesso? Aprire un cancelletto, perché in effetti ci capita nella vita, un po' come nelle mille e una notte, qualche volta, di aprire involontariamente una porta e la vita cambia. Cosa vuol dire aprire involontariamente una porta? Vuol dire prendere un treno che non dovevamo prendere, ci troviamo a prendere. Vuol dire trovarci in un posto dove non avremmo previsto di stare, conosciamo una persona che diventerà decisiva nella nostra vita. Tutti ci troviamo ad avere l'esistenza condizionata da porte che si aprono improvvisamente, senza il concorso della nostra volontà. E lui lì, Frederick, cammina, si trova a sbagliare, è importantissima questa dinamica dello sbaglio nel conoscere. Noi spesso, attraverso uno sbaglio che commettiamo, entriamo in una situazione di errore in cui però conosciamo. Lui sbaglia, dovrebbe tornare dalle sue parti, nella classe che invece sbaglia, entra nell'altra classe e trova per l'appunto, va da parte. Cosa succede su questa parte? Si canta, dovete pensare che il livello complessivo è basso ed è reso, il clima emotivo è reso caldo dal fatto di essere in una situazione particolare. Un viaggio per mare, prendete delle persone, se qualcuno di voi, parlo dei viaggetti mini, avrete fatto sicuramente dei viaggi forse importanti in mare, o a chi ha fatto un viaggio per mare importante, c'è qualcuno di voi? Come? Con la crociera dove è andata? Ma di ecco. Ma chi voi è andato per esempio a Ponza? Qualcuno di voi? Per Ponza non è un viaggio particolarmente impegnativo, perché prendete il battello che parte da Anzio, se non sbaglio, o anche da un'altra parte, e il traghetto dura quel tempo che dura, due ore, mi pare una cosa di questo genere, poi c'è la lancia, quella espresso, quella che è, che fa dire un mal di mare tremendo, e cosa succede sul battello? Che persone che non si sarebbero mai incontrate, viste prima, invece fanno comunella, chiacchierano fra di loro, no? Ecco, mettiamo che il battello non arrivasse nel tempo dovuto, ecco, e mettiamo che succedesse, ci fosse, che ne so, ci fosse un incidente, un qualcosa, si creerebbe una sorta di euforia, come in tutti i treni che ritardano, in tutti i mezzi di comunicazione che non arrivano in tempo, no? C'è un racconto che viene in mente in questo momento, meraviglioso, di, mi pare, Giulio Cortázar, se qualcuno lo riesce a trovare, un grande scrittore sudamericano, Cortázar, che racconta di una panne in autostrada, di un ingorgo in autostrada, no? Questo ve lo dico, e questo ingorgo, e questo ingorgo, sapete cos'è l'ingorgo? E questo ingorgo non finisce più. E quindi la gente si abitua a vivere lì in autostrada, a mangiare quel che capita, e si conosce, e si amano, e passano i mesi, gli anni, e nascono dei bambini, e muoiono delle persone, ma l'ingorgo metafora meravigliosa di quello che potrebbe capitarci un giorno uscendo dall'università e non tornando più a casa sul raccordo anulare. Ci sono anche altre metafore di situazioni analoghe. C'è un film di Buñuel che mi pare si chiamasse, anzi era sicuramente così, bellissimi film che fanno parte, dovrebbero far parte della vostra, del vostro background culturale di base, che si chiama L'angelo sterminatore, per motivi anagrafici voi l'avete visto sicuramente, e sono delle persone, se non ricordo male, che cercano di uscire da una chiesa e non riescono a uscire più, e quindi si scatenano affettuosità ma anche ostilità, insofferenze reciproche eccetera. Quindi torniamo al clima di un battello. Nel battello a un certo punto c'è sempre chi canta, specialmente a quei tempi forse, e quindi dà prova delle sue virtù canoniche. Qui nella fattispecie abbiamo un artista, l'abbiamo già nominato prima, uno che aveva un'arpa, se vi ricordate, e questo comincia a cantare. E che cosa canta? Sempre io trovo il libro che è qui, però. Cosa canta? Dunque, allora dovete prendere il capoverso subito dopo quello che avevamo veduto, che comincia così: c'était une romance orientale, subito dopo quello che avevamo visto. Allora, chi d'ora in poi, chi lo trova, per prima lo dica gentilmente ad alta voce. Quindi che pagina è la vostra? 24, benissimo. Allora, leggiamo questo capoverso, ve lo traduco naturalmente direttamente in italiano. Pronti? Era una romanza orientale, dove si trattava di pugnali, di fiori e di stelle. L'uomo in cenci cantava con una voce struggente. Il battito della macchina tagliava la melodia controtempo. Lui pizzicava più forte le corde di bravo e i loro suoni metallici sembravano esalare singhiozzi e come il gemito di un amore orgoglioso e vivo. Dai due lati del fiume dei boschi si inclinavano fino al pelo dell'acqua, alla riva dell'acqua. Una corrente d'aria fresca passava. Madame Arnoux guardava lontano in maniera vaga. Quando la musica si fermò, mosse più volte le palpebre come se uscisse da un sogno. L'arpista si avvicinò ad essi umilmente. Mentre Arnoux cercava della moneta, Frédéric allungò verso il berretto con mano ferma, allungò la sua mano verso il berretto con mano ferma e, aprendola con pudore, vi depose un Luigi d'oro. Non era la vanità che lo spingeva a far quell'elemosina davanti a lei, ma un pensiero di benedizione a cui l'associava un movimento del cuore quasi religioso. La scena è meravigliosa. La scena è meravigliosa e guardate come sempre in Flaubert come c'è un'attenzione alla misura dell'aggettivo. L'aggettivo non deve essere troppo sofisticato quando deve riprodurre qualcosa di molto semplice. Intendo dire che chi è che scrive male? Scrive male chi vuole a ogni costo usare degli aggettivi sofisticati. L'aggettivo deve essere proporzionale alla situazione che si va descrivendo. Allora, siccome qui stiamo parlando di qualcosa di semplice, cioè un arpista che su una battello sta cantando una romanza, allora questa romanza deve essere descritta in modi semplici per farne sentire tutto il calore e l'immediatezza con cui può giungere all'uditorio. È una romanza orientale. E noi subito, pensando all'orientale, abbiamo un sussulto, perché noi uomini di Occidente, all'Oriente pensiamo come che cosa? Come qualcosa di esotico, emblematicamente, di misterioso, di affascinante, no? Se io dico a lei che parto per l'Occidente, che reazione le può suscitare questo? soltanto per l'Occidente. Una cosa normale, perché io sono italiano e sono nell'Occidente, posso andare in America, ma se io le dico questa frase, parto per l'Oriente, che impressione le suscita? Anche in questi tempi di comunicazione globale in cui Oriente e Occidente sono assai più vicini, certamente una sensazione diversa, no? Per l'Oriente io immagino luoghi sconosciuti, inaccessibili, con lingue tanto più naturalmente inaccessibili. La romanza è orientale, perché vedete, nella banalità della vita, ascoltate a me gli occhi ragazzi, questa è una frase da scrivere, sempre. Nella banalità della vita, una frase bellissima che mi è venuta in mente ogni tanto, ho un'ispirazione in alto a sinistra. Questa è una frase bellissima. La dica lei? Può dirmi, può leggermi nel pensiero. Nella banalità della vita l'amore è sempre orientale. L'amore è sempre orientale. È sempre un qualcosa che ci trascina fuori dal flusso del quotidiano. Questa romanza, giusto appunto, è una romanza orientale, scusi, è una romanza orientale dove si trattava di che? Ecco, qui dice delle cose che possono essere sciocchezze nella loro semplicità, ma in realtà noi ne capiamo immediatamente la verità. In una romanza di che si deve trattare? Si deve trattare di problemi di fenomenologia dello spirito? No, si parla in una romanza, anzi sarebbe abbastanza triste se io parlassi di Husserl in una romanza, no? Si tratta in una romanza di pugnali. E guardate come mette in testa tutto pugnali, perché quando uno ama, la prima cosa che fa è che è geloso. Se non è geloso, questa è una vecchia idea proustiana, non ama. Cioè c'è un metro semplicissimo, non è l'unico metro, ma un metro semplicissimo per rendersi conto se uno ama o non ama, è la gelosia. Se in un rapporto uno non è più geloso dell'altra persona, può mentire a se stesso quante volte vuole, dicendo che è affezionato, che ci scopa benissimo, che ha una compagnia meravigliosa, ma se non è geloso non è innamorato. Cioè è come se uno, la gelosia è il calice amarissimo, chi non beve questo calice amaro non può bere neanche il calice dell'amore, bisogna essere gelosi. Quindi la prima cosa che viene è che se uno è geloso e ti portano via la persona amata, tu l'ammazzi, e l'ammazzi nel modo, non ha mica detto una pistola, ha detto il pugnale, cioè la prima cosa che ti viene in mente quando qualcuno ti vuol portare via la persona amata è di colpirlo con il corpo, non ha mica detto lo uccido strangolandolo, no? Ha detto il pugnale di shakespeariana memoria, va bene? Pugnale. Poi parlava di che cosa, oltre che dei pugnali? Parlava di fiori, naturalmente. Perché paradossalmente nell'amore ci possono stare insieme, anzi stanno insieme, le cose orrende, i pugnali, insieme alle cose più squisite e innocue, che sono i fiori, e alle stelle. Guardate, queste sono le finezze che Flaubert avrebbe amato molto sentire raccontare di lui. Guardate queste tre parole, è la prima volta che mi accade di notare come sono perfette. Pugnali, cioè la prima cosa che ti fa venire in mente l'amore, gelosia, eccetera. Fiori, siamo all'antitesi dei pugnali, evidentemente. I fiori si mandano come épargement, due tendresse nei confronti di una persona, ma anche per una persona di casa che ti abbia invitato a cena, no? Pugnali, fiori e stelle. Stelle perché l'amore, quando è stellare. Quindi abbiamo dato una seconda definizione della cosa, che quando c'è l'amore è sempre orientale. E quando c'è l'amore è sempre fra le stelle. Con tre parole, come avete fatto caso, lui riesce a farci entrare nell'atmosfera della situazione, laddove altri avrebbero usato 150 parole non riuscendo. L'uomo è incerci, L'uomo in Cenci è come tanti suonatori ambulanti, naturalmente poco, ma qui che significato hanno i Cenci? Hanno un significato preciso, che l'amore non guarda in faccia nessuno, quindi può essere cantato anche da persone che siano miserabilissime. E quindi direi anzi che di fronte a qualcosa che ci porta fra le stelle, tutti siamo idealmente in Cenci. Tutti. Capite? Ricchi e poveri siamo nelle stesse condizioni, ma canta con voce mordente. Mordente non si può dire mordente in italiano, c'è una parola che può essere usata ma che comunque non riproduce quello che dice il francese, che è struggente, però mentre struggente è molto più morbido, con voce struggente, qui nel mordente c'è una incisività che viene persa nella traduzione. Lost in translation è una delle tante cose. Voi sapete che la traduzione ha purtroppo questa sventura di perdere delle caratteristiche dell'originale. Il battito della macchina tagliava la melodia contro tempo. Questo è Flaubert. È lo scrittore, stai per dire, moderno. E cioè, uno scrittore del Settecento non avrebbe messo in mezzo qualcosa di profano come il battito della macchina del motore, no? Uno scrittore moderno invece fa partecipare alla scena le cose meccaniche. Le cose meccaniche. Uno scrittore, diciamo così, dantesco, per non dire Dante, avrebbe usato con molta difficoltà in un altro modo comunque questa contaminazione dei registri. Non che Dante non lo usi, ma sarei per dire, il discorso ci porta lontano, che nella misura in cui contamina i registri Dante riesce ad essere il genio che è. Ma la caratteristica del moderno è la contaminazione dei registri espressivi. Questo direi vale per me. Mi seguite bene al fondo? Facciamo un esempio. In Leopardi, che è il nostro massimo poeta lirico, no? Insieme a Petrarca, questa contaminazione degli stili la trovate con molta difficoltà, eppure è il poeta grande che è. Ma se andate a Montale, che è il poeta che ormai i ragazzi della vostra generazione studiano anche nelle scuole superiori, suppongo, insomma, vedete che la grandezza di Montale e la sua modernità, che si identificano, lo portano a dire, per esempio, un verso di questo genere in Satura. Ascoltate questo verso qua e ditemi se questo verso poteva essere altro che di un poeta del Novecento. Montale scrive, parlando di sé e della moglie defunta: lo avevamo dimenticato, l'infilascarpe, quel pezzaccio di latta arrugginita. Potete immaginare che in una poesia romantica possa comparire un infilascarpe? No. Potete immaginare che possa comparire un verso così duro, così aspro, con una sua intrinseca volgarità, come quel pezzaccio di latta arrugginito? Eppure il moderno è fatto di contaminazione. Tornando al punto, qui abbiamo quindi la macchina che con il rumore si oppone alla melodia e quindi guasta la melodia. Ma una caratteristica del moderno è proprio questa, che il flusso melodico nella modernità viene appositamente guastato. A, per creare nuovi effetti. B, perché rimanga la sensazione di ferita, di screzio. Pensate al più significativo movimento musicale moderno del XX secolo, che poi a un certo punto è andato attenuandosi come importanza, ma che certamente per almeno 30-40 anni ha avuto un'importanza assoluta, che è il jazz. E si basa sull'idea esattamente della frattura del momento melodico. Poi viene recuperato in altri sensi, eccetera, ma i discorsi porterebbero molto avanti. Allora, lui che sta pensando, sta con la sua arpa, cerca di darlo più forte per contrapporsi al rumore disturbante del motore, e sembravano allora le corde come dei singhiozzi, come il gemito di un amore orgoglioso e vinto. Un amore orgoglioso e vinto. Ogni amore quando è vero è contento di se stesso, è orgoglioso e fiero di se stesso. A un innamorato, da un innamorato che ami per avventura una persona che voi reputate sbagliata, voi non otterrete mai la confessione che lui si vergogna di questo amore, ne è sempre fiero. E quand'anche dovesse dire che sì, tutto sommato lo ritiene oggettivamente agli occhi altrui un amore disdicevole, però ne avrà sempre un senso di oscura fierezza, anche se riconosce che è disdicevole, anche se dovesse riconoscere. Vinto, vinto, perché il vero amore, secondo una topica mentale occidentale, è l'amore sconfitto, è l'amore non trionfante, è l'amore sconfitto. E mi fa venire in mente questa una cosa di tutt'altro genere, che tra gli errori più madornali che compie la Chiesa Cattolica c'è quello di avere proposto negli ultimi pontificati, negli ultimi due, quello che avete visto voi, Giovanni Paolo II e quello attuale, una visione di una Chiesa triunfans, che vuole essere trionfante, quindi di una Chiesa scarsamente amorosa, perché l'amore è legato al senso della sconfitta. Ed è strano, mi sta venendo in mente mentre lo sto dicendo, ed è strano che questo errore psicologico non sia stato visto, non sia stato notato, non venga notato. Più la Chiesa cerca di diventare trionfante e meno è dalla parte dell'amore. Più si presenta come vinta e più suscita commozione e partecipazione. Questo amore è emblematicamente, quindi, un amore vero perché è orgoglioso e vinto. Intanto, come sempre, la macchina da presa che si sposta, guardate, ai due lati del fiume c'è un'aria corrente di aria fresca che passa e Madame Arnoux guarda lontano con aria vaga. Che cosa pensa Madame Arnoux? Possiamo dire che Madame Arnoux non pensa, perché i pensieri d'amore non sono facili da formulare quando si abbia un'educazione molto rigida. Lei è una signora sposata, non le può venire in mente di cedere a passioni amorose. Quello che colpisce, noi siamo infinitamente più disinibiti, anzi siamo forse l'emblema della nostra civiltà di disinibizione, no? Ciò non di meno, i pensieri estremi li rifugiamo. Vi faccio un esempio: nessun uomo si scandalizza più di tanto, nessuna donna, quando siano sposati, nel sentire un desiderio nei confronti di un uomo o di una donna che, come si suol dire, non gli appartenga. Ma provate a sostenere il pensiero di un papà che, trovandosi con la figlia adolescente in casa, improvvisamente si trova a desiderare il corpo della figlia adolescente. Questo è un pensiero socialmente sostenibile? È insostenibile. Il tabù dell'incesto non è al momento attuale della nostra, fortunatamente, per me, dal mio punto di vista, della nostra civiltà, non è un pensiero violabile. Se lo è violabile, è nel segno di una abiezione che si manifesta poi in altro modo. Ma noi abbiamo dei pensieri insostenibili. L'omicidio del proprio padre o della propria madre è un pensiero, l'idea che tu possa essere l'autore della loro morte è un pensiero insostenibile. Qui Madame Arnoux si trova di fronte a un pensiero insostenibile che per noi sarebbe abbastanza sostenibile, e cioè quello che tu ti trovi a desiderare un altro uomo. Insomma, ricordatevi che quando vi capiterà di essere in condizioni di questo genere, mai dire la verità al vostro compagno o alla vostra compagna. La cosa di cui ci si deve più diffidare è la complicità del coniuge. I coniugi, i partner, diciamo meglio, i partner, non sono mai complici. Se affettano di esserlo dicendo dimmi tutto che ti comprendo, sono in malafede. Quindi mentire sempre. Se vi trovo in posizione inequivoca, conficcati, tanto per dire, l'un nell'altro, voi dite sono caduto qui per caso, ma negare sempre, negare tutto, perché i disastri che vengono dal non negare sono infinitamente superiori. Si trova di fronte quindi a un sentimento che la turba e guarda con aria vaga, ma c'è in quest'aria vaga, mi sembra, anche un qualcosa di stupido, nel senso che vediamo una persona che non riconosce i propri sentimenti, perché è troppo paludata, è troppo verniciata di buoni costumi per poterlo ammettere. Quindi guarda intorno con aria vaga. E vi prego di notare di queste palpebre che muove, come uscendo da un sogno, che sono palpebre che si muovono scioccamente, come capita quando una persona si comporta in modo animalesco. Comincia ad assumere qui un aspetto di donna animalesca, e naturalmente tutto fuorché quello che vorrebbe esprimere. Andiamo. Lui è molto semplice, da un Luigi d'oro. Sarebbe come se per un ragazzo come voi, per una persona che suona per la strada, desse desse il berretto 10 euro. Credo che è abbastanza difficile. Lei darebbe 10 euro a uno per la strada? Ecco, naturalmente se lei fosse molto ricca gli darebbe, ma chi è che dà 10 euro? Lo dà 10 euro non solo chi vuol farsi vedere, naturalmente per far bella figura, non solo quello, ma di chi crede a una sorta di protezione che gli potrà venire dal fato, protezione verso questo amore, perché poi tutti nella vita siamo assediati dai razionalismi e superstizioni. E quindi è come se dicesse, ma guardate con quale semplicità di ragazzo diciottenne, do una grossa somma, un Luigi d'oro per lui era tantissimo, insomma, perché il fato mi assiste. Alla fine il viaggio finisce, voltate la pagina, arriva vicino a casa e lì c'è una carrozza che deve venirlo a prendere. Si sono scambiati un saluto. Lei è sembrata non rispondere a questo saluto di lui. Guardate il capoverso che inizia: Elle rassemblée aux femmes des livres romantiques. Dite la pagina. Elle rassemblée aux femmes des livres. Guardate questo breve capoverso. Ella rassomigliava alle donne dei libri romantici. Non avrebbe voluto aggiungere lui, non avrebbe voluto aggiungere nulla. Togliere nulla alla sua persona. L'universo si era tutta un tratto allargato. E lei era il punto luminoso, l'insieme delle cose, dove l'insieme delle cose convergeva. E, cullato dal movimento della carrozza, le palpebre semichiuse lo sguardo fra le nuvole si abbandonava a una gioia sognante e infinita. Abreu non aspettava altro che si desse la piata, la vena al cavallo e, siccome c'era soltanto questa incombenza, andò innanzi sulla strada da solo. Arnù l'aveva chiamata Marie e lui gridò ad alta voce, Marie, e la voce si perse nell'aria. Lei assomigliava alle donne dei libri romantici. In effetti, almeno un tempo, i libri erano la prima cosa che ci facesse conoscere l'amore. D.H. Lawrence, lo scrittore inglese che forse avete conosciuto, qualcuno di voi, l'amante di Lady Chatterley, il libro, chi conosce questo libro, l'amante di Lady Chatterley? Ecco, il libro di una volta erano giudicati un po' zozzetti, ecco che adesso naturalmente possono essere fatti leggere da educandi, e li conoscete. Beh, D.H. Lawrence diceva questo, ci sono alcune donne che non avrebbero mai sentito, non avrebbero mai saputo nulla del sesso se non ne avessero letto qualcosa nei libri. Quindi la prima cosa che una volta si faceva per conoscere la realtà della vita sessuale e affettiva era leggere. Era attraverso i libri che le immagini salivano nella tua mente. E lui, Frederick, che era un ragazzo del tempo, naturalmente, un ragazzo del 1840, nel 1840 comincia la storia, e vede lei come un'eroina romantica e non avrebbe voluto aggiungere nulla e togliere nulla. Perché, vedete, il concetto di perfezione, è il concetto che noi attribuiamo alle opere d'arte. E quale opera d'arte è più opera d'arte della persona che amiamo? A un quadro di Caravaggio, posto che ne foste capaci, non sareste in grado di togliere o aggiungere nulla. A un verso di Dante non potete togliere o aggiungere nulla. Se Dante scrive la bocca mi baciò tutto tremante, quell'endecasillabo è perfetto, nulla può essere tolto. A una persona di cui siamo innamorati non possiamo né togliere né aggiungere nulla. Pian piano poi cominciamo a voler togliere qualche cosa, perché io volerne aggiungere altre, ad essere stupidi per esempio di una sorta di stupidità che la persona avrebbe potuto risparmiarsi agevolmente facendoci fare una figura meno barbina con le persone a cui eravamo d'intorno, però a quel punto ci sono degli aggiustamenti straordinari della psiche che ci vengono a dire, ma insomma questa battuta ancorché scema forse non lo era a tal punto e comunque fa parte di un suo inestinguibile fascino e quindi cominciamo a sentire l'amaro anche come dolce, ma certamente inizialmente tutto ci sembra perfetto e l'universo si è allargato, perché questa è la caratteristica di quando uno ama, quest'idea dell'allargamento dell'universo. Prima il nostro universo era la nostra camera da letto quando eravamo in una condizione povera con qualche amico, qualche telefonata, e poi improvvisamente c'è un mondo intero che è possibile tendenzialmente frequentare. Due amanti, due innamorati, una delle cose che fanno più spesso, anche se poi è più difficile realizzarlo, è l'idea di partire. Vogliono fare un viaggio assieme. Nella mia lunga convinzione sull'Erasmus, e sapete quello che penso dell'Erasmus, e ogni tanto quando vedo qualche stolida faccia, facciottina di studentessa che mi dice che va con l'Erasmus per studiare la lingua, sghignazzo cupamente, pienamente con mio, va per rimediare. Questa espressione nostra romanesca ha una efficacia semantica insostituibile. Rimediare, cioè raccattare quel che si può dal punto di vista delle avventure, capito? E allora, il pensiero di Erasmus mi ha portato lontano. E allora, Che cos'è l'Erasmus? L'Erasmus è per voi ragazzi, è il maschio enfin possible, il maschio finalmente possibile, al di là delle tutele dell'ambiente, di papà e mamma, dei ritorni a casa. E qui si immagina cose folli che poi naturalmente si scontrano con la realtà, a volte invece diventano una sola cosa con la realtà, e la ragazza erasmizzata, per così dire. Ecco, questa erasmizzata mi pare che abbia la ragazza erasmizzata, poi torna, bella questa erasmizzata, ha delle assonanze cupe, tragiche. Ecco, dove va? Vado a farmi erasmizzare. Qui avvertite già la cupa, direi anche la cupa vera violenta nota. E quando torna poi mi sembra che tutto il mondo sia privo di senso, ma quando uno si innamora vuol partire, vuol viaggiare, ma vuol viaggiare, eh? Cioè se il vostro amante, lei ha un amante, no? Voi amanti naturalmente alla vostra età non esistono, perché siete tutti quanti vergini di matrimonio, ma se gli dicesse cava con la lingua, facciamo un viaggio. E lei naturalmente innamorata, diventa rossa come in questo momento qui, sarà sicuramente. E dice sì. E lui dice dove? Dove? E l'amante, anzi il suo innamorato, gli dice a Grotta Ferrata. Come va? E io come soldi non è che posso prendere più dell'auto per andare una volta per lei, ma è male, è un viaggio immane, splendido. Ci sono gli sposi sciocchi che quando fanno il viaggio di nozze, cosa immaginano? E mettiamo che lei dica il giro del mondo e poi, vabbè, lo facciamo due volte. Giriamo due volte il mondo, ma in questo senso la vita si allarga. La vita si allarga e a questo punto dice cullato lui stesso, cullato al movimento della carrozza, chiude le palpebre. Chi è che aveva chiuso le palpebre poco fa? Le aveva chiuse lei. Vedete che qualunque innamorato diventa scemo nello stesso modo, qualunque innamorato chiude le palpebre. D'altra parte pensate nell'atto del baciare, questa è una vecchia questione. Se la persona che ti bacia, no? Per baciarsi bisogna stare vicino, non è alcun dubbio. A meno che uno non abbia le labbra ancora nel piede, no? Però non vedo dubbio che la vicinanza è ridotta al minimo. Lei come rimarrebbe se la persona che la bacia rimanesse con gli occhi aperti? Per cui a un certo momento lei vuol vedere se questo stronzo ha chiuso gli occhi o no e questa ha gli occhi aperti. Perché il chiudere gli occhi vuol dire immergersi in questa ebbrezza in cui siamo solo noi due, no? E a questo punto fa qualcosa che è l'unica che possa fare. Che cosa possiede di questa donna? Solo il nome. E allora sentite la scena lì in aperta campagna, di notte, di sera, ormai è sera, va lì a gridare il suo nome, mai. Cioè fa l'unica cosa che possa fare per testimoniare l'amore che è nato in lui. Ci vediamo.